Allora, siamo in collegamento con uno studente della facoltà di Lettere della Sapienza, dove stamattina si è svolta una partecipata assemblea d'Ateneo, dove continua la mobilitazione contro il DDL Gelmini, e ci facciamo raccontare appunto com'è andata l'assemblea di questa mattina e quali sono le prossime scadenze, le prossime iniziative contro il DDL. Ciao a tutti, allora qui dalla facoltà di Lettere, dove appunto come dicevi tu si è appena conclusa un'assemblea d'Ateneo molto partecipata, con anche tanti ricercatori, che ha riaperto in un qualche modo uno spazio che già nel mese scorso era stato attraversato alle facoltà in mobilitazione, ricordiamo il 14, quando anche con la forza della mobilitazione la discussione del DDL è slittata, così come il 16 ottobre assieme alla FIOM abbiamo riempito le piazze di questa città per contestare la gestione della crisi. Tra poche settimane il DDL sarà di nuovo alla Camera, si vocifera che sarà il 18, oggi nuove indicazioni danno la discussione spostata alla settimana successiva. Quello che è evidente però è che il governo cerca, in una fase di assoluta crisi, di stringere sulla questione dell'università, su cui evidentemente stanno in un qualche modo cercando una quadra anche all'interno della maggioranza. Difatti le dichiarazioni di Tremonti dell'altro giorno parlavano di 1 miliardo per l'università, purtroppo ci siamo costretti a smentirle, dato che i fondi che verranno stanziati sono molti meno e che in realtà non si tratta di un rifinanziamento, ma si tratta di quei soldi che sono necessari al fatto che le università non chiudano in questi mesi, ma non si tratta di un rifinanziamento, tant'è che pure per svelare cosa c'è dietro i trucchi sloganistici da parte di Tremonti, questi stessi fondi che Tremonti vorrebbe portare come nuovo finanziamento sono in realtà molti meno di quelli che l'anno scorso la finanziaria ha stanziato, quindi ci troviamo davanti a una situazione di una enorme gravità. Si avvicina il 17 novembre, che è una data è anche una data tradizionale di mobilitazione degli studenti, ma che alla luce anche dell'assunzione di questa data all'interno dell'Assemblea di Uniti contro la crisi del 17 ottobre scorso e della vicinanza con l'IDL assume una valenza tutt'altro che rituale. Il 17 novembre, oggi di questo si è discusso assieme a tanti ricercatori, a studenti delle facoltà della Sapienza e mobilitazione, deve essere una giornata di conflitto vero, di opposizione al DDL, e per questo motivo abbiamo deciso di lanciare durante la discussione in assemblea e alla fine con un comunicato che stiamo per rendere pubblico alla stampa, ai media, all'interno dei siti, delle mailing list, per lanciare la partenza da Piazzale Aldo Moro per quanto riguarda le università il 17 mattina alle 9, per picchettare l'università, per effettivamente generalizzare lo sciopero che la FLC ha lanciato per quel giorno e far sì che l'università entri in una fase di non normalità, che parte il 17, l'obiettivo di arrivare sotto il Parlamento, di non farci intimorire né fermare da eventuali divieti da parte della Questura rispetto alle manifestazioni, perché crediamo che anche il diritto al dissenso, il diritto di manifestare sia tema centrale della mobilitazione del 17 assieme all'opposizione al DDL Gelmini e in generale alla finanziaria, perché è una giornata che sarà attraversata anche da molti studenti medi ed è una giornata che noi vogliamo trasformare in uno spazio comune della formazione contro il governo e contro la crisi. In tutte le facoltà si stanno svolgendo, per esempio adesso sta per iniziare un'iniziativa presso la facoltà di lettere con De Michele e con gli studenti medi di SERF per costruire un discorso attraverso la presentazione del libro La scuola di tutti di Girolamo Di Michele, un discorso di ragionamento comune tra scuole e università. Stasera ci sarà una festa presso la facoltà di lettere lanciata da Anomalia Sapienza, l'assemblea delle facoltà ribelli di Uniriot a Roma, per costruire la partecipazione e il lancio del 17, così come la battaglia evidentemente non si ferma né il 17 né nel giorno, nonostante sia una giornata cruciale in cui il DDL andrà alla Camera, ma la questione riguarda complessivamente la finanziaria e la necessità di riuscire a bloccare le politiche di questo governo, che evidentemente è molto in crisi e che dobbiamo contribuire a rendere impossibilitato a decidere sulle nostre teste. Va bene, noi ti ringraziamo, ti chiedo soltanto se ti va di fare un commento al volo, perché stamattina abbiamo dato spazio durante la rassegna stampa alle notizie che arrivano da Londra. Sappiamo che già durante il movimento dell'onda c'erano stati link interessanti con Londra, abbiamo visto appunto una rabbia di una generazione che è scesa in piazza proprio ieri, abbiamo letto dichiarazioni appunto preoccupate del primo ministro inglese di questa mattina, di Cameron, che chiede più polizia, appunto se vi andava di fare un commento, un link da Roma. Questo innanzitutto è esattamente un tema centrale di cui non abbiamo parlato, e ti ringrazio per averlo ricordato, anche perché lo abbiamo anche scritto nel comunicato dell'Assemblea d'Ateneo, che il piano comune quantomeno europeo diciamo di politiche dell'austerity riguarda complessivamente una generazione cui viene negato il futuro. È proprio con lo slogan "Riprendiamoci il futuro" che saremo in piazza il 17, tra l'altro invito anche sul sito uniriot.org a seguire le corrispondenze audio, i video, le foto e anche i report che alcuni studenti che si della Sapienza si trovano in questo momento a Londra hanno fatto, proprio perché c'è un terreno comune che riguarda diciamo le politiche europee di austerity, è un terreno comune che riguarda le lotte, cosa che abbiamo sperimentato anche lo scorso anno andando a Vienna durante il decennale del Bologna Process e quindi di contestazione europea al modello di università e di scuola che vogliono imporre. A maggior ragione le giornate di ieri sono delle giornate, dei segnali in un qualche modo che una battaglia, diciamo uno spazio comune si apre, che quindi dalla Francia in mobilitazione all'Austria che nelle scorse settimane ha rivisto studenti occupare le università contro aumento delle tasse, fino alle grandi giornate di ieri potremmo anche rilanciare in questa prossima settimana riproponendo la canzone dei Clash London Calling, dicendo che se Londra chiama noi dobbiamo rispondere il 17. Va bene, ti ringraziamo, vi facciamo in bocca al lupo per le iniziative che state portando avanti e ci andiamo a risentire presto. Grazie a voi, a presto. Ciao, ciao.